YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube. Nella scaletta ho scritto buongiorno, ma ormai l'autunno, siamo entrati nell'autunno anche dopo Spotorno, siamo tornati in città. Sì, abbiamo fatto un bel weekend al mare, ho fatto anche il bagno io, tu no, ma io ho fatto il bagno, io non ho avuto il coraggio di fare il bagno, era freddino. Allora, pronti per farvi riascoltare come ogni settimana il perdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo. Questa sera è una bellissima settimana, vivace in tutti i mondi. E sai cosa anche? Cosa? Ti ho trovato una sorpresa per l'ultimo blocco, fantastica. Tu non hai idea di chi abbiamo l'opinione sui social network. Una roba pazzesca. Dagli archivi della radio televisione italiana. Dunque. Allora, dai, account, hashtag, e poi parliamo di un argomento di cui ho tantissima voglia di parlare. C'è un bianco all'inizio della scaletta. Dunque, et Marta Cagnola. Et di Bellasio con l'hashtag cancelletto RadioTube. Qual è il primo argomento importante di oggi? Voglio iniziare la settimana parlando d'amore. D'amore? Sì. È strano che tu voglia parlare d'amore. In effetti, ti sei innamorato, hai scritto. Sì. Ti sei innamorato? Facebook lo sa. E io questa cosa l'avevo già capita. Allora, praticamente pare che su Facebook, perché noi parliamo sempre troppo di Twitter, ma parliamo un po' di Facebook. Sì. Pare che a Palo Alto, a me fa sempre ridere Palo Alto, ma non lo so. Non voglio sapere perché, andiamo avanti. Rudy in regia è andato via. È scappato, te credo. Dici, dobbiamo innamorarci, poi Palo Alto. Ma siamo avanti. Hanno progettato una serie. Allora, fate ordine, maschietti, uno in regia e uno al microfono. Sto leggendo una segnalazione da Wired, perché a Palo Alto, e non ridete, hanno progettato una serie di studi per evincere dati statistici che potessero prevedere la nascita e la durata di una relazione semplicemente guardando Facebook, perché nei 100 giorni prima che la relazione inizi, 100 non 1000, si osserva un lento ma costante aumento del numero di post nella timeline condivisa. 12 giorni prima dell'inizio della relazione c'è un picco. Giorni prima c'è un picco. Sempre lì che guardi apice. Il suo profilo, quello di sua cugina, quello di sua mamma, quello di sua zia. Poi tende a diminuire, raggiungendo il punto più basso dopo 85 giorni dall'inizio del tutto. E non è la crisi del settimo anno. No, è che uno fa altro dopo 85 la crisi giorni. Dopo 85 giorni non stai più lì a guardare i social network. Ma tu dici che il premier è andato da quelle parti per quello, per sapere come funziona lì. Ma ne parliamo tra poco, sai. Ma contavano anche i Messenger, perché è Messenger che capisci. No, ma questo è un algoritmo di Facebook. Perché quando tu ti innamori continui a guardare così il profilo F5 aggiorna. Ma tu ce l'hai l'età, la data? No, perché l'altro grande dibattito di Facebook è inserire o no l'anno. Guarda, della data. Io ce l'avevo, poi a un certo punto ho detto tolta. Quella è la categoria peggiore, perché c'è chi non l'ha mai messa, chi la tiene e chi la toglie. Comunque questa cosa d'amore è bellissima, volevo dirla subito all'inizio perché sono una ragazza romantica. Cosa dice l'algoritmo per te di Facebook? Sto facendo qualunque cosa pur che tu non mandi in onda il prossimo audio. Guarda, l'algoritmo di Facebook dice che questa settimana sulla 7 è andata in onda qualcosa di bellissimo, ragazzi. Io mi sono svegliata presto la mattina apposta per accendere prima. E guardare Omnibus, perché sapevo che c'era ospite Daniele Bellasio. E quindi così volevo vederlo appena sveglia. Ma è una roba di un'autoreferenzialità. Poi dicono che ci parliamo addosso. Tu stai zitto perché ci è bellissimo sopra. Quello che è successo. Allora, Daniele Bellasio è completamente impazzito. Ma non è vero. Ma sì, ti sei messo a litigare. Io sono contro che accada. No, allora, io lo voglio riascoltare. La lite straordinaria della settimana è quella a Omnibus la 7 con Paolo Ferrero e Daniele Bellasio. Eccolo qua. Per onestà intellettuale, per onestà non è intellettuale che ci alle famiglie italiane va meno del 10% e di quel meno ammazza, del 10% il restante in larga va alle parte nostre va ai banche, ricchi, a quelli più poveri banche. Non va nulla. Vabbè. Per onestà intellettuale. Sì, facciamo alle banche. Possiamo tornare agli anni 2000 o restiamo negli anni 70? Sa perché io la interrompo? No, la devo silenziare. No, aspetti, dico solo più una cosa in 10 secondi. Non le chiedo scusa, ma in 10 secondi. Ma si può capire che l'Europa è il continente che cresce di meno nel mondo e l'Italia cresce di meno in Europa? La domanda è come mai? Perché abbiamo i paesi con il debito. Come mai il resto del mondo? Paesi con il debito. Come mai il resto del mondo? Facciamo rispondere. Come mai il resto del mondo vede la banca centrale finanziare il debito degli stati e l'Europa è l'unico posto dove siamo strozzati dagli speculatori? Perché? Bellasio. Ci sarà una ragione. È una puntata divertente perché Ferrero che propone il modello americano è stupendo. Sulla politica le rispondo. Beh, allora la risposta io vi dico, dovete guardarvela sul sito. No, la guardatevela sul sito della 7. Ah, no, vabbè. Perché è stato bello quando poi sei impazzito. Ma sei andato avanti. Che io non devo prendere voti, lui sì. No, questo è vero. In realtà, cioè uno fa tutti i ragionamenti sui talk, però poi quando va lì ospite si fa prendere dalla cosa. Dai. Beh, sì, devo dire che guardavo anche nella pubblicità, lo ammetto, lo confesso. Sì. Guardavo su Twitter quello che veniva detto, anche perché appunto poi uno non è che sa esattamente qual è la percezione, il talk percepito è diverso dal talk partecipato, mentre tu sei lì non hai idea di che cosa passa all'esterno, come avere una sorta di angelo custode social che ti aiuta a capire dove ti sei spiegato male, dove ti sei spiegato bene, dove hai esagerato, perché può capitare di esagerare, non mi pare, dai, non ho esagerato. Beh, però un po' ti no, sei arrabbiato, che bellino che sei arrabbiato tantissimo, a un certo punto poi proprio impazzito, urlava, vabbè. Ma andatevelo a vedere. Vogliamo parlare di cose di diverso? Adesso parliamo, continuiamo a parlare di politica, lo facciamo con un ospite però tra poco, perché adesso c'è il traffico. Traffico, sono favorevole. Poco. YouTube. Rieccoci insieme dopo la pausa del traffico, dopo aver ascoltato. Ecco, Daniele voltiamo Bellasio, pagina, come dite voi bravi conduttori. Cioè veramente per un anno, per 60.000 puntate ormai di RadioTube abbiamo detto questi che litigano, talk è morto, litigano. Cambia. E cosa fa Daniele Bellasio? Litiga in un talk show. Questa è la settimana del premier che è andato in America, che ha parlato in inglese. Ha detto alcune cose anche sul suo inglese. Noi l'avevamo già un po' preso in pochino. Io l'avevo difeso perché il mio inglese assomiglia molto al suo. Cioè mi getto, che... è vero, lo sa. Come fai a saperlo? Mi getto, parlo e so che commetterò degli errori. Però del resto è l'inglese della nostra generazione e ci sarebbe da riflettere su questo aspetto. Comunque. Vabbè, io direi che ascoltiamo subito come lui però si è scusato, L'ha detto sì, il mio subtitles. English. Sentiamolo. My English is terrible, so it's... All recorded, but cancel my English, please. So with the subtitles. And just one question, please. With the subtitles? La lingua è uno strumento. Se lo usi e l'obiettivo lo raggiungi, bravo che l'hai usato. Sta parlando con una che ha, cioè io ho studiato tu lingue, ho capito, però studiarlo è un altro discorso. Senti, ne parliamo con qualcuno che ne sa, dai, occupiamoci un po' seriamente di Renzi, perché devo dirti che noi abbiamo parlato tantissimo nella scorsa stagione, però quest'anno siamo stati abbastanza bravini e non abbiamo esagerato, però è impossibile questa settimana non parlare. Perché insomma le cose, YouTube, la comunicazione, il Corriere della Sera, ci sono ancora i muri che tremano in via Solferino. Ne parliamo con chi? Dai, fai il bravo presentatore. Allora, ne parliamo con un amico, un collega, editorialista dell'Unità, a cui facciamo un grande abbraccio perché ritorni il prima possibile in tutto il suo splendore. Sì. L'animatore di un blog molto divertente, che l'indirizzo non me lo ricordo perché io non segno le cose, comunque Quadernino lo trovate. L'animatore di Left Wing, che è una cosa strana, magari poi ce la spiega lui, Francesco Cundari. Buonasera Francesco. Buonasera. Ti è piaciuta questa presentazione da bravo presentatore di Bellasio? Sono commosso e ammirato. Bene. Che meraviglia. Allora, Francesco, tu cosa pensi di questa visibilità così English di Renzi? Perché noi ci scherziamo molto, ma alla fine, secondo te, è efficace? Sì, io non mi sorprenderei se un giorno un biografo, un giornalista investigativo scoprisse che in realtà Renzi è madrelingua inglese, lo parla perfettamente con accento cockney e che fa tutto questo di proposito, perché consapevole del fatto che a ogni battuta, ogni ironia, compresa quella che sto facendo io in questo momento, lui guadagna 8 milioni di voti tra gli italiani che si identificano in lui e che ovviamente non sopportano quelli che lo prendono in giro col ditino alzato perché la pronuncia del suo inglese non sarebbe. Tutti quelli che hanno sofferto, come credo quasi tutti noi, con The Pennies on the Table e cose del genere, lo guardano e lo vedono come il loro eroe, cioè uno che, parlando l'inglese così, parla con Obama, va a parlare al Council on Foreign Relations o come si dovrebbe pronunciare, e tutti ridono e tutti gli vogliono bene, e anche in questo modo rappresenta in qualche modo la promessa di un futuro migliore per ognuno di noi. Io devo dire che sono impazzita in particolare per questa intervista che mi ha segnalato Daniele a Bloomberg TV. Il compromesso con i sindacati non è la soluzione, certo, me l'ha spiegato in English, eccolo qua. I respect all ideas and I respect also the ideas of unions. The compromise is not a bad word. We can achieve a compromise if necessary. In this case, compromise is not the way. In this case, we must absolutely invest in a new modality of invest in labor market in Italy. This is not the time of compromise, this is the time of courage. Beh, allora, chiarissimo, no? No, posso dire che non è che lo parli male, è buffo l'accento, è buffo questo suo impegno che ci mette. L'inglese è risciacquato nell'Arno, diciamo. Ha sciacquato i panni nel fiume sbagliato. Ok. No, però poi dice delle cose anche importanti. Certo. Però nel ragionamento di Francesco, ti richiamo su questo aspetto, c'era un sottofondo, come dire, hai imparato da qualcuno del recente passato. Cioè stavi in via subliminale dicendo che ha qualcosa di Berlusconi, un argomento che insomma questa settimana è saltato fuori. Sicuramente, secondo me, è come dire un figlio della rottura estetica che c'è stata nella politica italiana con Berlusconi. Cioè, prima di Berlusconi era inimmaginabile pensare un politico italiano al centro di questo genere di video, di scherzi, che insomma, no, era immaginabile solo due ipotesi: o un politico italiano che parlava l'inglese più o meno bene e andava via così, oppure si teneva un interprete e la cosa finiva lì. Ma proprio l'idea di un esponente della politica italiana, di governo di alto livello, che non solo, diciamo così, si arrangia con l'inglese in questo modo, ma ci scherza anche sopra e che alimenta anche quasi un tormentone su questa sua su queste sue, diciamo, simpatiche defaillance, è impensabile se lo immaginiamo appunto con i tratti di qualunque leader politico del passato, di destra o di sinistra, insomma, anche del recente passato, eccettuato Berlusconi, naturalmente, che secondo me appunto è quello che, cioè, è un aspetto, diciamo così, del suo essere un politico pop, appunto, come, certo, come Berlusconi, certamente, un po' la sua bandana, il suo inglese, un po', non so, il suo apicella. Non a caso c'era Tony Blair di fianco a Berlusconi con la bandana. Sì, devo dire, nelle foto sembrava un po' inquieto e non sì, sembrava molto lievemente attuario, in imbarazzo. Blair, sì. Però... Poi la cosa divertente è che contemporaneamente lui è accusato di assomigliare a un'altra inglese, cioè la signora Thatcher, e contemporaneamente, nonostante tutti questi video che girano sulla rete, però sono video seri, istituzionali, fatti dai siti di informazione, forse è stato il primo premier a dire una cosa su YouTube. Dalla cassetta di Berlusconi recapitata ai telegiornali, lui ha scelto i pochi minuti di YouTube. E anche per le poche visualizzazioni, però no, questo è interessante. Non sono tantissime. 25.000 tipo, sì, praticamente sì, giornalisti. Sì, sì, sì. Questo esatto, è molto interessante. Esatto. Vabbè, ascoltiamo un pezzettino di questo video di Renzi su YouTube. Oggi la CGIL ha deciso di andare all'attacco del governo. Il segretario Camusso ha detto: il governo ha in mente Margaret Thatcher quando si parla del lavoro. Ma quando si parla del lavoro, noi non siamo impegnati in uno scontro del passato ideologico. Noi siamo preoccupati non di Margaret Thatcher, siamo preoccupati di Marta, 28 anni, che non ha la possibilità di avere il diritto alla maternità. Io sono preoccupata di Marta, non vi dico l'età, tanto lo sapete, eccetera, eccetera. Ha scelto una un po' più grandina di te. È un filino, e poi c'è il problema della maternità, io no. Comunque, ragazzi, poche visualizzazioni però sto video, forse non, gli italiani non sono lì. L'hanno visto al telegiornale, sì. Però certo questo scontro con i sindacati, Francesco, anche qui ci sono rievocazioni del passato sotto forma di YouTube? Sì, è un... In realtà non è l'unica, cioè, anzi non direi che non ne manca nessuna, se insomma noi che facciamo i giornalisti e ci ricordiamo queste cose, se pensiamo appunto prima le polemiche per avere aperto un dialogo sulle riforme istituzionali con Silvio Berlusconi, e quindi le accuse di terremotare in questo modo il governo di centrosinistra, poi il fatto di andare a Palazzo Chigi senza passare dal voto e le accuse di complotto, tradimento nei confronti del Presidente del Consiglio del centrosinistra spodestato da lui, adesso anche la polemica sull'articolo 18 con il segretario della CGIL e la cronaca del governo D'Alema 97-98. Ah, stupendo. E non manca nessuno dei pezzi, diciamo, di quelli che... solo non si vedono i due liocorni. Non si vedono i due liocorni, però attenzione, si è inserito, Francesco, qua ti provoco proprio, lo ammetto, un ingrediente di un certo peso. Cioè questa settimana è stato pubblicato un editoriale di Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera. Cioè era quello dell'odore del napalm la mattina presto? Sì, questo l'ha scritto Marco Cobianchi, mi pare, non mi ricordo. Comunque, no, era quello dell'odore stantio di massoneria, più che altro. Cioè... si è inserita una cosa che comunque è di una certa novità, un editoriale del Corriere della Sera, dell'austero Corriere della Sera, che dice quello che ha detto. Che cosa ne pensi, Francesco? In realtà il Corriere della Sera da tempo, non diciamo magari con la firma del suo direttore, ma con firme di altri autorevoli editorialisti in generale, tutto il giornale, non è che si potesse definire, come dire, proprio un sostenitore convinto di Renzi e del suo governo. È curioso e significativo certamente che da quando Renzi è diventato segretario del PD e poi presidente del Consiglio ha perso diversi dei suoi originari sostenitori, soprattutto appunto in quel campo, in quel mondo, il che non è detto che sia un male, forse era persino inevitabile, nel senso che io che non ero un sostenitore di Renzi alle ultime primarie né a quelle precedenti, spesso l'ho anche diciamo, sono stato facile profeta, nel senso che è naturale che quando c'è uno scontro interno, è sempre stato così, alla sinistra, al maggior partito della sinistra, quello che è visto come l'outsider, il disturbatore, quello che può mettere, diciamo, zizzania nel campo della sinistra, riceve il sostegno di quelli che spesso, diciamo, per la sinistra non hanno tanta simpatia. Però una volta, nel caso in cui poi questo qui vinca e diventi lui il leader della sinistra, è chiaro che la situazione cambia e quindi in una certa misura è inevitabile che alcuni dei sostenitori di prima perdano un po' della loro, diciamo, passione per lui. Allora io vorrei tenere ancora con noi per qualche minuto Francesco Cundari, c'è una brevissima pausa, ma Francesco, voglio chiederti un po' di cose, anche di una cosa molto carina che hai scritto questa settimana sul tuo blog. Ti chiediamo solo social, qualche istante, si parla di social network. Social. YouTube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro Radio TV, una seconda parte scoppiettante, anche perché mi hai promesso una sorpresa. Una sorpresa finale incredibile, cioè abbiamo l'opinione sui social network dell'intellettuale con la L maiuscola. Ah vabbè, io allora aspetto. Aspettiamo, aspetto fino alla fine. Ancora una ventina di minuti. Vabbè, insomma, intanto se volete interagire con noi, sempre su Twitter, siamo i nostri qua. Account chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio e l'hashtag RadioTube. E quello di Francesco Cundari com'è? Allora, quello di Francesco Cundari, ancora buonasera Francesco. È bellissimo, io ho fondato un club che si chiamava così. Chiocciola Peraltro. È stupendo. Perché si chiama Peraltro, Francesco? Probabilmente perché Francesco Cunderi era occupato, perché non avevo capito che cosa stavo scrivendo quando mi sono registrato, no? Peraltro è stupendo. Peraltro. Va bene. Ma anch'io tu volevi chiedere all'inizio con avevo la, il mio nickname. E quindi hai perso dei follower, no, li no, regalati no, alla no, rete. No, l'avevo allora nel, nella parte chiocciola, che è quella che non puoi cambiare, è sempre stato chiocciola Marta Cagnola. Ma nel nome, quello che puoi cambiare, avevo il mio nickname di che un era? Tempo, non ve che lo era? Dico. Che non ce lo dici, no, va bene, tutte le cose importanti. Palo Alto era. No, lo, era Super Bimba. Super Bimba. Da blogger io sono sempre che stata. Che tenerezza, ci sono delle lacrime in regia, ci espelle di nuovo, questa volta sì, te. Sì, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che c'è Fabio in regia con un cartellino rosso e un cartellino giallo. Sì. Quindi io l'ho preso rosso perché ho difeso l'inglese di Renzi e tu perché, vabbè, perché mi andiamo siete andati avanti a fare dei doppi sensi che io non che nessuno ha fatto, perché la malizia sta negli occhi di chi guarda. Un po' di dicevi. Serietà, ragazzi. Francesco Cundari questa settimana sul suo blog, che ora vi dico per bene, quadernino.wordpress.com, ha preso in giro. Oh, perché allora tutti, tanto lo so anche voi cari ascoltatori, avete un account di Facebook, avete una pagina, e in questi giorni che cosa vi hanno chiesto tutti i vostri amici? Di fare la lista la catena dei della 10 libri che vi hanno cambiato la vita. E allora eccala. Tutti lì, no? E via. L'uomo senza qualità. No, non è vero. No. Non hai messo... No, anzi. No, vabbè, io non l'ho fatta. Io avrei messo la recherche, ma perché... Adesso vabbè, ti metto la recherche. Ragazzi, ma dai, sì. Ma non ci credere sulla sinossi della recherche. Ma Francesco che cosa ha combinato? Francesco ha detto basta. Questi che dicono... Avete mentito tutti? Non sono quelli i 10 libri che vi hanno cambiato la vita. Adesso io ce l'ho la top 10, non me la leggo tutta, perché altrimenti non andate su quadernino.wordpress.com. C'è molto Salgari. Le pantere di Algeri, i misteri della giungla nera. Abbiamo anche un Sandokan alla riscossa. Abbiamo il Signore degli Anelli, abbiamo i racconti del terrore. E anche i tre moschettieri. Ma insomma, i 10 libri che hanno cambiato la vita di Francesco Cundari, che ha detto: ma basta con queste liste di libri, non ci crede nessuno. È la famosa storia: tutti fingono di aver letto Moby Dick. Tutti fingono di aver letto. E invece Moby hanno Dick. Visto il film. Esatto. Francesco, come ti è venuta questa presa in giro? Mi è venuta perché ovviamente vedendo appunto tutte queste liste appunto di letture più o meno impegnative, Wittgenstein in tedesco, Proust in francese, eccetera, eccetera, mi è venuto in mente che quello che mi dava fastidio, c'era qualcosa che mi infastidiva, e non era tanto la sensazione più o meno giustificata che si trattasse di menzogne e che diciamo al massimo gli autori di queste liste avessero letto la quarta di copertina dei libri in questione. Il punto vero è che in realtà secondo me c'era qualcosa di non autentico, a prescindere anche se li avessero letti davvero tutti, nel senso che appunto nello sceglierne 10, nel far vedere a tutti i propri amici: guardate che libri ho letto io e che libri difficili e impegnativi ho letto, c'era qualcosa che secondo me mi ha fatto pensare insomma che già quando abbiamo deciso di leggerli, perché insomma di noi almeno 10 non ne ha letti, 10 libri insomma che si possano presentare in società per fare bella figura, in realtà lo abbiamo fatto appunto per questo motivo, cioè non eravamo sinceri nel momento stesso in cui li leggevamo. Già proprio nelle intenzioni erano. Esatto, non lo abbiamo fatto per il piacere di leggerli, l'abbiamo fatto per il piacere di poter dire un giorno: guardate, ho letto La ricerca del tempo perduto. Figurati che poi è arrivato Facebook e ci ha dato la possibilità di moltiplicare per decine di migliaia di persone questo desiderio. Vabbè ragazzi, parliamo anche un po' di televisione, visto che insomma Daniele l'ha detto la scorsa settimana. Sì, Daniele perché, l'ha detto la scorsa settimana. Perché secondo te è crollato Ballarò? È crollato, è un po' calato, diciamo ecco, così. Ecco, perché io mi chiedevo, ma come mai nessuno ha guardato i talk questa settimana? Perché tutti hanno seguito il consiglio di Daniele Bellasio. No, ma no, il consiglio è ripartito. Devo dire che è ripartito per me male. Cioè, non ti è piaciuta la prima puntata della seconda stagione? Ma neanche la seconda. Di House of allora, facciamo un passo indietro. House of Cards, sì, eccolo qua. Frank Underwood che parla dell'odio. Sapete di che cosa nessuno vuole parlare? Dell'odio. Io so tutto dell'odio. L'odio inizia dalle viscere, in profondità, qui, dove si gira e si rigira, e poi cresce. L'odio cresce in fretta e vulcanico. Erutta con delle parole bollenti, Gli occhi si tingono di un rosso fuoco, i denti si stringono così forte che sembrano come frantumarsi. Io ti odio, Dio! Sì, io ti odio! Ah, non ditemi che non l'avete mai detto prima, so che l'avete fatto. L'abbiamo fatto tutti, quando abbiamo provato un dolore che ci lacera dentro. Eccolo qua il discorso sull'odio. Beh, ne avevamo parlato in una puntata di qualche tempo fa. Sì, sì, era della prima stagione di House of Cards. Francesco, tu che ti occupi da tanto tempo di politica, sei un appassionato di House of Cards, l'hai visto? Sì, sono in realtà sono molto indietro, ma per fortuna questo episodio l'ho visto, siccome diciamo, è appunto dei primi, se non sbaglio, della prima stagione. Altrimenti non vi avrei mai perdonato per avermi spoilerato. No, no, ma infatti io sono andata proprio indietro, sono andata a prendere un classico della prima stagione. Sì, sì, questo è il discorso in chiesa in cui lui in realtà sta mentendo, sta recitando una parte, no? E quindi che cosa, tu che vivi poi, insomma, anche se lo scrivi, aspetta che vado a prendere la tua biografia sul tuo blog quadernino.wordpress.com, non mi considero un giornalista di sinistra ma una persona di sinistra che fa il giornalista, comunque la politica l'hai frequentata per un po' di anni e continui a osservarla, che cosa ne pensi di questo ritratto che fa? Perché il premier ha comprato il libro, si è fatto fotografare mentre lo comprava, ha detto che bisogna guardare le serie televisive per preparare alcune serie televisive americane per prepararsi. Cosa ne pensi? C'è questo cinismo. Ma come dire, qualcuno ha fatto notare come ci sia un salto di qualità notevole nel passaggio anche dalle serie americane di qualche tempo fa. Penso innanzitutto a West Wing, dove erano in qualche modo diciamo i protagonisti comunque, sia pure con tormenti, problemi, difficoltà eccetera, però insomma tutti impegnati per affermare i principi democratici e i valori umani più insopprimibili e così via. E, insomma, il passaggio da quel mondo a quello di House of Cards, dove appunto il protagonista è un cinico e un uomo che punta soltanto al potere per il potere, non si ferma davanti a niente, e in qualche modo ecco questo passaggio è significativo del clima che è cambiato in America e non solo nella politica americana, anche se in realtà appare sempre un po' sfasato, perché poi alla fine è vero che West Wing prendeva spunto dall'amministrazione Clinton, ma poi insomma almeno io abbiamo visto anche ai tempi delle amministrazioni Bush, mentre adesso insomma il cattivissimo Frank Underwood, in fondo diciamo noi lo vediamo mentre al governo degli Stati Uniti c'è Obama, c'è quello il premio Nobel per la pace, il premio Nobel per la pace, quello del discorso del Cairo, quindi c'è sempre difficile diciamo stabilire un parallelo preciso con la politica americana in generale, però certamente è curioso come le stesse serie TV americane riescano a raccontare lo stesso mondo in modi così radicalmente diversi, insomma da una parte una storia comunque edificante che lascia lo spettatore comunque nella convinzione che sì, il mondo della politica, della grande politica è difficile, sono necessari tanti compromessi, però insomma alla guida ci sono persone animate dalla volontà di migliorare le cose per tutti e dai valori più autentici del popolo americano, e dall'altra diciamo così il mondo della politica visto quasi da un sostenitore di Beppe Grillo, insomma, no? Manca solo che insomma facciano un po' di scie chimiche quando gli altri non guardano. Quando arriva la seconda stagione, Francesco, non ti spoilerò nulla, ma la surrealtà, cioè quella cosa che stai dicendo ora diventa pervasiva e quindi tutto come sommato mi piace di meno. Come dicono gli esperti di serie, ha saltato lo squalo? Dici che non ho idea, immagino se capissi che cosa vuol dire. Vabbè, dopo te lo spiego. Jump the shark. Allora, per salutare Francesco Cundari, vorrei chiedergli una cosa, visto che noi ci occupiamo di social, ci occupiamo di rete. Francesco Cundari ha fondato il Left Wing, che è una rivista online, ma la cosa bella, io mi ricordo all'epoca, perché insomma qualche annetto di rete alle mie spalle ce l'ho, gli archivi di Left Wing risalgono addirittura fino al 2003. Quindi sei stato... C'era, posso internet dire? A manovella. Esatto, c'era cherosene praticamente, si usava la carbonella. Io per... ero all'università, mi pare. Sì, vabbè, dai, non ci crede nessuno. Adesso non esagerare. Dai, non esagerare. Francesco, posso dire cosa hai fatto ai precorsi tempi? Sei stato lungimirante. Che cosa è stata e cos'è ancora l'esperienza di Left Wing? Ma in realtà non è che io lo abbia ancora capito benissimo, e forse questa è la caratteristica di questo tipo di cose, insomma, che un po' anche, in fondo anche House of Cards parla un po' anche di questo tipo di cose, no? Della giornalista che addirittura lascia il grande giornale per andare a scrivere per un sito internet, una cosa che un tempo, diciamo, sarebbero stati ricoverati i giornalisti che avessero fatto una scelta del genere. Già invece ormai sappiamo qualche anno fa è accaduto con Politico e poi eccetera eccetera. Quindi non lo so in realtà io che cosa ho fatto, spero che comunque, diciamo, di capirlo, di scoprirlo presto, però sicuramente l'aspetto fondamentale secondo me è che, insomma, se c'è voglia di divertirsi e di lavorare sulle idee, alla fine gli strumenti si adattano e funzionano, insomma. Giù i confini sulle idee. Francesco, no, però dopo c'è la sorpresa, sì, dopo c'è la sorpresa. Pazzesca. Dopo c'è la sorpresa. Francesco, ciao Francesco, torni a trovarci, anche se solo certamente telefonicamente. Ti aspettiamo allora. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a Francesco Cundari, @ peraltro su Twitter, e poi invece quadernino.wordpress.com per il suo blog. Noi ci ritroviamo tra poco perché mi hai promesso una sorpresa. L'intellettuale. Quindi. YouTube. No, fallo dire a me. No, vuoi dire no, tu? No, fallo dire a me. Come passa il tempo quando ci si diverte con Marta. Oh, che bello. Ogni tanto mi dice anche delle cose carine. Non mi tratta io, sempre io male. Penso a Marta, 28 anni. Quella di Renzi, non io. Eri tu, parlava a te, al paese, sì, aveva sì il rapporto diretto con te. Mi hai promesso allora una sorpresa. No, divento serio. Sì, perché sì, casualmente, siccome voi che andate tanto al cinema e voi che andate tanto ai festival, in questo periodo si parla tanto di un intellettuale particolarmente importante nella storia di questo paese. Allora io, così per sfizio, sono andato a vedere cosa c'era su YouTube di questo intellettuale. Ma diciamolo chi era? Pierpaolo Pasolini. Okay. E ho trovato una intervista di Enzo Biagi a Pierpaolo Pasolini, peraltro con un Biagi tonico, incalzante, che esprime la propria opinione, segno peraltro che quindi non è soltanto un vezzo del giornalismo degli ultimi anni quello di esprimere l'opinione con io penso, ma anche un maestro come Biagi lo faceva. E Pasolini risponde a proposito di un mezzo di comunicazione di massa. A me è piaciuto perché mi ha ricordato, anche se parlava ovviamente di un altro mezzo, mi ha ricordato alcune delle analisi che si possono fare, sai, su Twitter. Lo sentiamo? Era il 1971, Pierpaolo Pasolini parlava della televisione, ma anormale. Perché la televisione è un medium di massa, e il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Ma oltre ai formaggini e al resto, come lei ha scritto una volta, questo mezzo che porta soprattutto ai formaggini in casa, porta adesso le sue parole. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no? No, non è vero. Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole. No, non posso dire tutto quello che voglio. Lo dica. No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, so oggettivamente, di fronte all'ingenuità, diciamo, o alla sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Twittare, non twittare, sembra una social media policy quasi. Ah beh, allora adesso io mi metto lì e rifletto. Sai, ci sono... Vabbè, insomma, abbiamo parlato di Pasolini. Sì, del anche film. Per film. Beh, esatto. Sì, film. No, tu l'hai visto? Io l'ho visto a Venezia, e devo dirti che, vabbè, sul film ho molte riserve, perché è un film effettivamente un po' troppo... un po' spregiudicato. Forse per noi italiani è un po' lesa maestà andare a toccare quella storia lì. Però, devo dire, obiettivamente, William Dafoe è impressionante. Quanto è bravo. E quanto è... Davvero, lui non ha imitato Pierpaolo Pasolini, però è impressionante quanto riesca a coglierne le parti essenziali. A renderlo vivo sullo schermo. Però sempre a Venezia. Sempre a Venezia io ho visto un documentario che mi è piaciuto tantissimo e lo voglio segnalare perché questa sera sarà in onda in prima serata su Rai 3. Noi che parliamo di quello che passa per la rete, che passa per la televisione, dei video che rimangono poi nel nostro immaginario, beh, insomma, in questo caso c'è un doppio binario. Non è solo qualcosa che va in rete, ma è qualcosa che torna, perché l'anno scorso, seguendo le orme di un progetto ideato da Ridley Scott, che ha comunque partecipato alla realizzazione anche di questo progetto italiano, Gabriele Salvatore, si ricordi, ne parlammo, chiese a tutti gli italiani di mandare dei video amatoriali girati in una giornata. Sai che giornata era? Era il 26 ottobre. Ma che giornata importante, sì, fra un mesetto quel giorno lì mi viene una mazzata tra capo collo. Potevo fare 40. Non ci ho pensato l'anno scorso che potevo girare un 40. Video per festeggiare il compleanno di Daniele Bellasio, non mi era venuto in mente. Vabbè, insomma, 26 ottobre, però era il 2013. 13 erano ancora 39. 45. Vabbè, comunque, a parte i problemi video, di mezz'età, 45.000 video sono arrivati a Gabriele Salvatores. E li ha guardati tutti? Beh, li hanno guardati tutti una squadra molto nutrita, anche di ragazzi giovani, anche di studenti delle scuole di cinema. Questa cosa è molto bella. Noi abbiamo un brevissimo estratto di uno dei video che compongono quest'opera corale enorme che racconta un giorno in Italia, il 26 ottobre 2013, Italy in a Day. Questa è una cosa che noi amiamo fare, girare il centro di notte. Perché ci piace girare il centro di notte? Bella domanda, perché ci piace girare il centro di notte? Perché siamo dei tocchi? No! Siamo dei tocchi? No, siamo dei... A Modena si usa dire che siamo dei tocchi? No, no, ci piacciono questi colori. Ci piacciono questi colori? Queste luci. Le luci. Sono dell'anteguerra. Sono dell'anteguerra queste luci. Però sono belle. Luci. E poi l'assenza di suoni. Ah, oh, l'assenza di suoni è una cosa piacevolissima, le quattro. Beh, questi ragazzi che passeggiavano per Modena di notte. Ah, era Modena, mattina. Che bello. Sì, passeggiavano di notte, perché sono proprio 24 ore nella vita degli italiani. Ma dicono bellissimo come io film. Io pianto. Hai pianto? Beh, sei pianto. Guarda, tu, cioè, no, diciamo, no, io no. Neanche ci vado perché stramazzo, ma ha una trama. Allora, la mia esperienza è stata così. All'inizio mi veniva un po' di commozione. Ho detto no, beh dai, è mal di testa. No, resisto. Poi sentivo proprio che il nodo saliva. Il grumo. E allora ho detto vabbè, dai, una lacrima. Cedo. Dai, se ne accorgerà nessuno. Lascio traballare la lacrimuccia sulle ciglia, basta. Lì ho aperte le cataratte, via. Bambini piangevo, vecchi piangevo, mucche piangevo, ho pianto sotto il film. Mucche, ma per le mucche sono perché? Le espulsione, mucche espulsione dalla regia. Ma le mucche, c'è una trama? No, io sono curioso. È un giorno di vita, ho capito, degli italiani, quindi è un affresco dalla o notte. c'è una storia? La storia è l'arco temporale, si parte dalla notte e si arriva alla notte successiva. Intanto Gabriele Salvatores ha spiegato qual è stato un po' il meccanismo che ha fatto sì che gli italiani ormai sono diventati bravissimi, prendono il telefonino e filmano. Sentiamo Salvatores. La tecnologia ha aiutato questo un pochino, le immagini non sono brutte rispetto a se l'avessimo fatto 10 anni fa, avremmo avuto delle immagini decisamente meno belle, no? A proposito, se qualcuno mi vede la prossima volta, come lo sto dicendo a tutti, il telefonino se usate in orizzontale che è meglio invece che in verticale che diventa una striscetta, ma però a parte queste cose che sono, direi che c'è una cultura dell'immagine che è cresciuta sicuramente nel tempo grazie appunto al web, grazie alle tecnologie. E in realtà è una fase di democratizzazione, un po' come è successo, se vuoi, tra virgolette, un po' come è successo con la musica. Ti ripeto, non credo nella democrazia diretta e non credo neanche nel cinema diretto, che può essere fatto da tutti, ma non per difendere il mio lavoro, semplicemente perché spero che ci siano poi delle persone che per ora stanno riprendendo delle cose, ma che poi si diventino registi, quindi con uno sguardo loro. Beh, allora mettete il telefonino in orizzontale. Un consiglio di regia di Gabriele Salvatores, sì. E poi io vorrei consigliarvi anche di non mettere il telefonino in tasca, perché questa settimana ormai tutte le prese in giro di quelli che hanno comprato l'iPhone nuovo e lo rompono e lo piegano perché lo mettono nella tasca dei pantaloni. C'è sto fatto. Sì, però ragazzi, il telefonino in tasca, dai. E dopo anche perché tutti adesso che arriva il BlackBerry quadrato, farà malissimo, secondo me. In tasca, dici che punge. È una cosa incredibile, almeno l'iPhone, visto che ormai stiamo dicendo le mani. Neymar, che non c'è più ritegno. Sì, comunque, insomma, sì, quello almeno è bombato. Non lo so, guarda, io da femminuccia non metto i telefoni in tasca, però questo perché questo i maschi profluvio, fanno di più, non lo so, è questo profluvio di prese in giro sulla rete per quanto riguarda i telefonini che si piegano, l'abbiamo letto tutti. Voglio concludere, sì, se posso fare un saluto. Settimana... Sì, puoi fare un saluto, Daniele. Saluto Marta di 28 anni. No, quella di Renzi. Se Marta ancora di 28 anni volesse, sì, telefonarci, noi, sì, la ospitiamo. Esisterà, sì, sì, o è un espediente retorico? Marta di 28 anni, quella di Renzi, se quella ci vuole di Renzi, chiamare, se ci vuole chiamare. Allora, tutte le Marte, tra cui peraltro anche mia sorella, che però non ha 28 anni, però tutte le Marte di 28 anni, scriveteci a @MartaCagnola, sì, @DiBellasio, sì, #RadioTube, viva tutte le Marte del mondo. E diteci, io sono quella di Matteo Renzi. Noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18, grazie a Fabio Cantadori in regia. A presto!